Buonasera Upside Down, buonasera da Mottola, da Massafra, da Lecce, da Bari, da Modugno, da Palo, da Trigiano, da Mola. Ho dimenticato qualcuno? Da Roma, Taranto, Terracina, Ruvo, Milano, Bisceglie, Amsterdam, chi altro? Chi? Grumo, Toritto. Non vi è piaciuto Toritto? Toritto non è piaciuto. Benvenuti. Se posso dire un'altra cosa sui Seotto, i Seotto ama mandarvi a quel paese. Quindi, se siamo qui è perché true love, perché il vero amore, perché il vero amore ci manda. Quindi so che ti hanno già mandato a quel paese, ma mai come ci manda i Seotto. Quindi per piacere andiamo a parlare con Gianluca, Luciana. Molti di noi hanno fatto già dei viaggi, hanno fatto delle prime esperienze, molti di noi stanno valutando se andare per più tempo, se rimanere da qualche parte. Una cosa so, quando Dio ti manda, Dio anche ti equipaggia e ti dà tutto. Quindi non avere paura se sei piccolo, se hai 15 anni, quest'estate, la scorsa estate abbiamo fatto un viaggio in Albania con dei quindicenni, sedicenni e Dio ha sconvolto la loro vita, ha sconvolto Tirana e noi vogliamo continuare a vedere ragazzi che veramente mettono sotto sopra questo mondo. Ci sei o no? Boh, proprio nessuno, cioè. Ci sei a cambiare questo mondo o no? Oh, c'è qualcuno. Allora, questo piccolo insegnamento si chiama taglia e congela. No, non è vero. Quest'anno cercherò di essere più morbida. Voglio farvi vedere un video che sarebbe dovuto essere il reale spot di True Love, ma poi l'abbiamo cambiato perché abbiamo visto che, insomma, ci voleva un po' più di movimento. Comunque, mandiamo il video. Jack, via con la prima. Hi guys! Benvenuti alla nuova edizione di True Love 2015. Quest'anno il tema principale sarà: sei per la pesca alla polparola o sei per la pesca alla pelosa? Sei più per la pesca a strascico o per la pesca da trago? Fateci sapere. Non lo sapevano Karen Salvatore. Karen Salvatore, vi ricordate? Quando fate i video, ricordatevi che qualcuno li mantiene nel cellulare, ok? Quindi attenti, siete per la pesca a strascico o per la pesca alla polparola? Che significa? Che in noi c'è una tendenza, dal momento in cui, diciamo, forse attualmente i tempi si stanno accorciando, ma forse già da quando sei alla scuola elementare, la prima domanda che ti fanno è: ce l'hai la fidanzata? Anzi, no. Quando c'è la festa della cresima di tuo cugino, ok? Indovina la domanda che ti fa la nonna. Me, ce l'hai il fidanzato? Me, ce l'hai la fidanzata? Da quando siamo in scuola elementare già, qualcuno ci fa questa domanda e tu stai pensando: ma io non ci ho proprio pensato. Chi di noi ha avuto il suo primo fidanzato alla scuola elementare? Posso vedere le mani? Scusate, possono alzare le mani di quelli sfigati che nessuno se li filava alla scuola elementare? Ma scusate, ma non è che necessariamente alla scuola elementare qualcuno ti ama e ti vuole sposare. Cioè, io prego per mio nipote che a scuola elementare non si avvicini nessuno, a scuola media non si avvicini nessuno, Gioele a scuola superiore non si avvicini nessuno, forse all'università, forse. Noi abbiamo fatto un patto con gli Upside Down: se vuoi essere un Upside Down fino a 30 anni non devi avere nessuna fidanzata o fidanzato. Vuoi essere un Upside Down? Ci sono persone che stanno ancora condannati da questa cosa. Ma a un certo punto qualcuno ti chiede: ce l'hai un fidanzato? Ce l'hai una fidanzata? Ciao, sono Sara, sei fidanzata? Sì, sono sposato, mi dispiace. Ma sei fidanzato? Sei fidanzata? Cioè, stai calmino, tranquillo, sto solamente dicendo il mio nome e quanti anni ho. Perché? Perché abbiamo questa tendenza, uno, a farci i fatti degli altri, perché insomma, mo che conosci qualcuno, gli chiedi sei fidanzato, sei proprio un impiccione. Ma poi, Ma poi perché? Perché ti mettiamo, perché ti dobbiamo mettere in imbarazzo? Perché ti dobbiamo chiedere, beh, c'è qualcuno nella tua vita? Perché la cultura ci dice, se non hai nessuno non vai bene. E quindi se non sei fidanzato non vai bene. Se sei di nuovo a True Love quest'anno e non hai nessuno, mamma mia, ne hai fatti così tanti, vuol dire che non hai imparato niente. Oppure, non so, arrivi a 28 anni, sei da solo, tranquillo, con il Signore, fantastico, continua, tranquillo. Hai 16 anni e non hai nessuna intenzione di essere fidanzato perché vuoi servire Dio e perché hai deciso che la passione più grande della tua vita è Gesù. Va bene. Hai 22 anni, hai finito l'università e ti dicono ma ti sposi, ma stai tranquillo, perché la Bibbia ci mostra che essere da soli è una bellissima prospettiva per servire Dio. Sì Sara, ma tu lo dici perché sei sposata? No, no, prima di essere sposata ero anche io single e sono stata single per tanto tempo e vi assicuro che il tempo dell'essere single per me è stato il più bel tempo in cui io abbia potuto servire da sola. Quando poi mi sono sposata è diventato straordinariamente bellissimo perché ho sposato l'uomo più bello del mondo. Vero? Ieri ha predicato con la giacca, il papillon. Mio marito è un uomo speciale e io lo amo tantissimo. Oggi sono stata incoraggiata dal vero amore anche dai miei pastori. I miei pastori hanno postato una foto in cui hanno scritto, e Sofia ha scritto, 40 anni insieme, ancora felici. Io amo questa coppia bellissima. Vogliamo fare un applauso ai nostri pastori? Sono fantastici. Sono fantastici. Devo dire che ieri Vito ha detto che nell'amore è sempre uno 0-1. Sofia, vedendoti con i capelli lunghi, bionda, ho capito chi ha perso nella coppia da voi. Perché pastor, dov'è il mio fantastico pastor? Dov'è il mio super pastor? Ma ti credo che ti sei innamorato. Cioè, di una olandese fantastica. Ma Dio ti ha amato proprio, tu da Tricarico, eh? Cioè, il Signore è proprio buono. Quanti vogliono fare la fine del pastore? Cioè, nel senso che viene qualcuno, un olandese. Molti pastori vogliono il tuo esempio. Un olandese che arriva, bionda. Bellissimo. Ok. Alzi la mano. Ho bisogno di fare un sondaggio. Alzi la mano, alza la mano. Se sei un egoista o sei vivo. Se sei o un egoista o sei vivo, alza la mano. Non ti piace? Hai alzato la mano perché sei un egoista o perché sei vivo? Tutti e due. Tutti e due. Vuoi sapere il riassunto di questo piccolo messaggio che si chiama Che gioco giochiamo? Il riassunto di questo piccolo messaggio è: sei un egoista, Gesù è un umile servo e Dio ti vuole benedire nelle giuste relazioni. Chi se ne vuole andare? Ok, rimanete con me. Siamo egoisti, sì, siamo egoisti. E se stai pensando, no, mi dispiace, Sara, io, ma tu non hai visto quanto ho messo nell'offerta ieri? E stasera ho preparato un'offertona che i vasi che ci abbiamo noi non basteranno. Sara, ma tu stai dicendo a me che io spendo tutta la mia vita per gli altri, che io amo gli altri più di me stesso, che io amo gli altri come Gesù mi dice di amarli, io amo gli altri, ma guarda io... Se stai pensando questo, sei un egoista. Se stai pensando che questo messaggio non è per te, sei un egoista. Perché ho chiesto se sei un egoista o sei vivo? Perché da quando nasciamo siamo degli egoisti. È nella nostra natura umana che noi nasciamo come egoisti. Adamo ed Eva avevano tutto, tutto il meglio, tutti gli alberi più belli, tutte le cose più straordinarie, avevano una relazione esclusiva con Dio, camminavano senza vestiti, ma ragazzi, ma quanti volevano essere nel giardino dell'Eden, tranquilli, senza dover essere sottoposti allo shopping ed essere con tuo marito, tua moglie, tranquilli, sotto gli alberi, no? Bellissimo, tutti quelli sposati sono felici. Lo so che stai pensando, voglio essere sposato, sì, sono felice. Però lì, erano lì, avevano tutto, eppure hanno pensato, no, c'è qualcosa che ci manca. C'è qualcosa che ci manca. Ed è da quel momento che a tutti quanti noi è cominciato a mancare qualcosa. È da quel momento che l'egoismo è diventato insito nella natura umana. Noi nasciamo e noi pensiamo generalmente, per lo più, nella maggior parte del nostro tempo, come posso essere felice oggi? Che cosa mi fa stare bene oggi? Come posso fare in modo che Melissa faccia qualcosa per me così io posso essere contento oggi? Come posso fare tutto quello che voglio senza ledere a quello che penso, a quello che credo, ai miei valori? Perché? Perché io valgo. Io valgo, ce l'ha detto L'Oreal, ce l'ha detto la Vodafone, ce l'ha detto anche Gesù. Lo sai che cosa ha detto Gesù? Perché io ho tanto amato questo mondo. Io ho tanto amato questo mondo. E noi come credenti, come figli di Dio, abbiamo pensato, mamma mia, cavolo, il Dio, il creatore del cielo e della terra, dell'universo, si è fatto uomo, è venuto sulla terra per salvare me. Wow! E allora posso continuare ad essere egoista anche dopo che conosco Gesù. Perché Gesù è per me che è venuto. E Gesù è venuto, sai perché? Per farmi stare bene. La Bibbia dice che Gesù è venuto affinché noi abbiamo vita ed abbiamo vita abbondante. Signore, sai perché vivo io? Io vivo perché voglio una vita abbondante che tu mi hai promesso. E il Signore dice, ok, vai nello Zimbabwe. No, ma questa non è la vita abbondante che tu mi hai promesso. Perché non è possibile che sacrificarmi è una vita abbondante, perché l'abbondanza e il sacrificio, eh? Secondo voi possono stare nella stessa frase? Sì, perché l'abbondanza e il sacrificio stanno nella stessa frase e queste due parole si riassumono con Gesù. Gesù è abbondanza e Gesù è sacrificio. La maggior parte di noi, forse tutti noi, io la prima, ho creduto e credo la maggior parte del mio tempo. Signore, grazie perché sei venuto per me, per farmi essere felice. Wow, la mia vita è fantastica perché ho un marito meraviglioso, vivo vicino al mare, ho una chiesa fantastica, io ho i pastori migliori del mondo, ho le sedie nella mia chiesa che sono comodissime, vero? Ho l'accoglienza, mamma mia che accoglienza, e poi c'ho, guarda che amici, ho gli amici più belli del mondo, poi c'ho la mia famiglia, mamma mia la mia famiglia, i miei genitori, sono bellissimi, apro l'armadio e dico ma che bei vestiti, che belle collane, mi manca una, la comprerò stasera, bellissimo Signore, grazie, grazie che mi dai il pastore Punto come amico, ma tu lo vedi quanto sono benedetta, ma ragazzi ma chi ce l'ha il pastore Punto come amico che viene a mangiare a casa tua? Io ce l'ho, ma che bella vita, Signore, previsto per me, ma sono felicissima. Il Signore dice, vuoi essere primo? Sì, servo. Ma Gesù, ma tu non eri quello venuto per farmi stare bene, tu mi hai creato, ho una sessualità, ho dei sentimenti, io devo essere felice. Gesù ha detto, servi gli altri. Aia! Allora Gesù, o io non ho capito niente, o tu mi stai dicendo un sacco di bugie. O io non ho capito niente, perché io ho accettato Gesù per essere felice. E tu mi stai dicendo sacrificati. E sai cosa ci sta dicendo Gesù? Che noi possiamo essere felici solo se viviamo la sua pienezza. E la sua pienezza è sacrificio. La sua pienezza è darsi. La sua pienezza è dare tutto quello che lui ha avuto, cioè se stesso, per gli altri, per te, per me. Se noi siamo qui è perché Gesù ha scelto di sacrificarsi per noi. Ti piace questo? Ti piace fino a quando va bene che ti dice io ti amo di un amore eterno? O ci va bene anche quando Dio ci dice metti prima me? Metti prima me e tutto il resto ti sarà dato in più. C'è qualcosa che vive in noi, qualcosa che vive nei miei pensieri, nel mio corpo, nelle mie emozioni, che mi dice io devo stare al centro. Non mi piace questa chiesa? Vado ad un'altra. Quello che mi sta dicendo Sara non mi piace? chi se ne frega, la nota la scrivo così faccio vedere che la sopravo gli appunti e poi appena c'è un momento prendo e cancello. E poi non mi piace mantenermi puro per Dio. Se faccio qualcosina, chi lo deve sapere? Non lo saprà nessuno. L'importante è che io sia felice. L'importante è che io sia al centro. Mi è piaciuto un sacco quello che abbiamo fatto prima nella lode. Letizia ha detto gira e vivilo come danza di libertà. Letizia ha detto noi siamo il Tempio del Signore. Quello che tu sei è il Tempio del Signore. Non è per dire io sono al centro, ma per dire Gesù, tu sei al centro di questo corpo. Gesù, tu sei al centro della mia testa. Gesù, tu sei al centro dei miei sentimenti. Gesù, tu sei al centro della mia vita futura, di quella passata e di quella che sto vivendo. Ti piace? E l'egoismo, l'egocentrismo, che ha una familiarità con l'orgoglio, purtroppo vivono in noi. Perché siamo uomini e donne. È nella nostra natura che c'è questo, e questo influenza le nostre relazioni. Voglio farvi vedere delle slide. Noi nasciamo facendoci queste domande. Tu ti stai chiedendo in questo momento forse cosa significa, perché non conosci l'inglese, te lo dico io. It's all about. Significa con chi ha a che fare con... Poi c'è un vuoto. It's all about chi. Con chi ha a che fare la tua vita? E forse ti sei venuto qui chiedendoti la seconda domanda. Anzi, te la faccio io la seconda domanda. It's all about Jesus? Ha a che fare con Gesù? Il tuo centro ha a che fare con Gesù? E forse la tua risposta è la prossima. No. Ha a che fare con me. Tutta la mia vita deve avere a che fare con me. Sono io che voglio decidere cosa fare, sono io che voglio decidere cosa fare con il mio corpo, sono io che voglio decidere cosa fare con le mie relazioni, sono io che voglio decidere cosa fare con i miei sentimenti. Ora la mia domanda è ancora quella che viene dopo. Veramente ti conviene? Veramente ti conviene? Ti conviene veramente rimanere al centro di tutto? Pensi che sia la cosa migliore per te rimanere al centro di tutto? Pensi che il meglio che Dio ha previsto per te sia quello che tu hai previsto per te? Io spero che la tua risposta possa essere la prossima. Puoi prendere il meglio che Gesù ha per te? Ti dico questo. Gesù è il meglio per te, lo vuoi prendere? E spero che sia questo il nostro punto esclamativo. Io spero che tu arrivi alla fine di questo incontro e dici, Gesù, ti faccio spazio, voglio che tu regni, voglio che tu sia al centro, voglio che tu sia il re della mia vita, voglio che tu sia il re del mio corpo, voglio che tu sia il re dei miei sentimenti, voglio che tu sia il re delle mie relazioni. Lo sai che quando si è egoisti, le persone egoiste entrano nelle relazioni solo per prendere. E può essere che qualcuno sia fortemente scemo e decida di sposarti. E se sei una persona egoista, il tuo matrimonio sarà basato sul fatto che l'altro ti dà e tu prendi solamente. Allora Vito mi dà e io prendo. Vito fa qualcosa per me e io prendo. Vito allora non mi fa regali ma io li voglio, allora me li devi dare. Queste relazioni sono relazioni di abuso. Perché uno dà e l'altro prende. Se si mettono insieme due persone che sono egoiste, cioè che tu stai cercando il tuo bene e ti è capitata la sfortuna che l'altra persona sta cercando il suo bene, quello che avrai sarà un matrimonio fatto di conflitti. Perché tu dici voglio, ho bisogno, devo prendere, devi darmi, non vai bene, devi darmi di più. E sai cosa penserà l'altro? Mi devi dare di più, perché ho bisogno, io voglio, tu mi devi dare, perché ho bisogno di prendere. Questo non sarà un matrimonio benedetto. Un matrimonio benedetto è quando si sposano due persone che hanno deciso di servirsi l'un l'altro. E cioè quando la prima persona entra nel matrimonio e dice: come posso servirlo? Come posso dargli? Come posso darti dell'amore? Che cosa posso darti che ti fa bene? Cosa posso darti che sia il meglio per te? Cosa posso darti per farti essere esattamente quella persona che Dio ha previsto che tu sia? E sai cosa risponde l'altra persona? Che cosa posso darti? Cosa posso dare di me? Cosa posso dare di Dio? Cosa posso dare nel matrimonio che dà valore? Cosa posso dare della mia santità che dà valore? Come posso fare in modo che la persona che amo, la persona che è nel matrimonio con me, sia il meglio? Se sono questi i criteri che stai vivendo ora, allora sei pronto per sposarti. Yeah. Se dopo queste domande hai pensato, allora io voglio servire, io voglio servire. E forse qui dentro c'è qualcuno che sta pensando, io voglio servirla, io voglio servirla. Abbiamo preparato una stanza, sto scherzando, per farvi incontrare, c'è il pastore, possiamo già fare il matrimonio. Magari il prossimo anno, spero che True Love possiamo essere tutti matrimoni, bellissimi, bellissimi. Quest'anno abbiamo 8 matrimoni nella nostra chiesa, siamo troppo felici, io punto per 10, ok? Anzi, sul 9 sto anche pregando, Saverio e Enza non ce la fanno più perché hanno il corso prematrimoniale grandissimo. Come credenti, sapete che cosa facciamo? Giochiamo a spiritualizzare il nostro egoismo. Perché? Quando siamo credenti, diciamo no, Dio ha lavato la mia vita, io ora vivo per dare. Però voglio fare una lista delle cose che voglio che il mio futuro marito abbia. Non faccio alzare le mani di chi ha la lista, ok? Perché io ce l'avevo. Io ce l'avevo e Dio è stato buono, però ce ne avevo anche un'altra. Bene, voglio farti vedere una foto che ho visto sul web. Mi ha fatto troppo ridere. Se non trovate il principe azzurro, la soluzione è prendere un tipo a caso e verniciarlo. Vi piace? Io credo che questo sia esattamente quello che noi pensiamo. Tu hai una lista, ci pensi oggi e hai messo 2 punti. Entro la fine della serata hai 47 punti. Poi arriva la prima persona e dici ce l'ha, non ce l'ha, no. E poi viene la seconda e dice ce l'ha, non ce l'ha. Dispiace, fai una cosa, vernice, ok? Vernicialo. Noi abbiamo imparato come credenti a spiritualizzare il nostro egocentrismo. Voglio darti un consiglio. Se hai già pronta la lista delle cose che chiedi che tuo marito abbia, che tua moglie abbia, fai accanto una lista di cose che sei pronto a dare a tuo marito o a tua moglie. Non chiedere solo la persona giusta, sii anche la persona giusta. Allora nella seconda lista ti chiedo di mettere cosa devo cambiare nella mia vita per essere un servo umile. Cosa devo cambiare per essere come quel Gesù che dice vuoi essere il primo? Servi. Sei pronto ad amare? Dai tutto. Quante liste avrai stasera? Quanti stanno andando le Roi Marlene a comprare la vernice? Fai 2 liste, perché la persona giusta diventa anche la persona giusta. E sai come diventa la persona giusta? Se la fai diventare anche la persona giusta. Sai, puoi avere la persona giusta accanto e farla diventare la persona più sbagliata del mondo. E al contrario, la persona giusta ha bisogno di avere una persona giusta e tu puoi diventare una persona non giusta se continui a chiedere che quella persona sia giusta lei e basta. Che cosa c'è dietro? C'è un bisogno, c'è la fame, c'è l'idea che noi abbiamo un vuoto. E che questo vuoto tu lo puoi colmare con un buonissimo orgasmo, con una bellissima moglie, con un marito che ha i muscoli fantastici. E allora hai bisogno, e hai bisogno di avere il marito più bello, hai bisogno di avere la moglie più bella, hai bisogno di avere la casa più bella, hai bisogno di avere i vestiti più belli, hai bisogno di avere tutto quanto più bello. Perché? Perché semplicemente hai fame. E ti assicuro che se quella fame, dopo un po', non viene colmata, tu comincerai a mangiare di tutto. E comincerai a mangiare anche le cose scadute. comincerai a mangiare tutto quello che il tuo frigorifero ti propone, anche se c'è della muffa sopra. Perché? Perché hai cominciato ad accontentarti. Perché quando hai fame, hai fame. E non ti interessa più che quella persona sia credente. Non ti interessa più che quella persona abbia un cuore per Dio. Ti interessa che sia una persona. Ti interessa che respiri. Ti interessa che abbia un lavoro. Ti interessa che voglia stare con te. E se poi ingrassi, è ancora disposto a stare con te? E se poi lui ingrassa, sei ancora disposto a stare con lui? E se poi perde tutti i capelli e perde tutti i denti, sei ancora disposto a stare con lei? Noi stiamo ridendo. Sapete quale percentuale di divorzi abbiamo in Italia? Sapete il motivo per cui o quando la maggior parte delle coppie italiane divorzia? Nel primo anno di matrimonio. Vuoi sapere perché? Perché a un certo punto il marito si sveglia e scopre che la moglie ha i peli alle gambe. E ha pensato che non ce li aveva i peli alle gambe. E allora divorziamo, perché non è perfetta come avevo pensato. E poi a un certo punto il marito non lava le mani quando è uscito dal bagno. E non va bene. E non va bene. Che cosa ci fa essere così egocentrici? Ci fa essere così egocentrici quel bisogno che abbiamo di essere saziati. Ora, voglio farla breve. Secondo te, e so che sei una persona intelligente, una persona, qualsiasi sia, potrà mai colmare quel vuoto? Potrà mai avere quelle aspettative che tu hai? Potrà mai rispettare tutta quella perfezione che ti sei immaginato? Potrà mai essere perfetto ogni giorno della sua vita? Potrai tu essere perfetta ogni giorno della tua vita? L'egocentrismo ci fa essere un po' irragionevoli, un po' stupidi a volte, perché quel bisogno ci fa dire: Sara, ho trovato una donna giusta. Ehi, ma non l'ho vista domenica in chiesa. No, no, si convertirà. Sì? E perché non aspetti che si battezzi? Perché non aspetti che ami Gesù prima? Perché? Perché ti aspetti che amerà più te prima di amare Gesù? Perché ti aspetti che rispetterà più te più che Gesù? Io ho fatto due scelte straordinarie nella mia vita, ne ho fatte tante schifose, però due scelte straordinarie. A 15 anni, 14 anni e mezzo, ho pianto davanti a tutta la Chiesa per accettare Gesù nella mia vita. Ero uno schifo, avevo un bisogno immane di amore, ero vuota, ero piena di peccato, ero piena di egoismo, ero piena di rancore, ero piena di orgoglio, ero piena di ferite, però ho fatto una scelta. Ho detto: Signore Gesù, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Non posso più passare un altro giorno della mia vita senza che tu non riempi questo schifo che io ho. E sai cosa ha fatto Gesù? Mentre noi eravamo ancora peccatori, lui ci amò per primo. E Gesù, sai cosa mi ha detto? Ti stavo aspettando, ti stavo aspettando. Quanti con me sapevano che Gesù li stava aspettando? Posso vedere la mano? Gesù ha avuto un appuntamento romantico con te il giorno in cui tu l'hai accettato. E sai che cosa? Gesù stava lì ad aspettarti, non sapeva se tu saresti venuto o no, ma lui ti ha aspettato. Forse ti ha aspettato un sacco di giorni, ma lui ti ha aspettato. E la seconda scelta più importante che ho fatto è sposare un uomo che ama Dio più di me. Sapete, nella mia lista delle cose avevo simpatico, intelligente, un bellissimo sorriso, un fisico da sballo. No, bugia, quello non ce l'avevo, però mi è venuto bene. Amore, ti amo tantissimo, lo sai. E poi avevo una cosa, ho messo una croce su tutte le cose che avevo scritto e avevo detto che ami Dio più di me. Sai perché? Perché io amo Gesù, io lo amo tantissimo. però ho bisogno di una persona che ami Gesù più di me, perché quando sto in lite con Gesù mi dica: ehi, ma sei stupida, torna da papà. E mio marito lo fa. E quando non ce la faccio a fare quello che lui mi dice, io ho bisogno di una persona, di mio marito, che mi dice: oh, ma com'è? E papà ti ha detto di avere fede. Io ho bisogno. E sai cosa c'è? Io credo che tutti noi abbiamo questo bisogno. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che a un certo punto ci ricordi: ehi, me. E noi abbiamo bisogno che succeda questo, sai dove? Nel letto di casa tua. Non in chiesa, non nel gruppo, no, a casa tua, nel bagno. Ehi! Si dice a Bari. Ehi! Ehi, me! Fai quello che Gesù ti ha detto. Perché te lo stai dimenticando? Io ho bisogno di mio marito per vivere la mia vita con Dio migliore. E questo bisogno ce l'hai pure tu. Perché se hai conosciuto Gesù, hai colmato questo bisogno. E quando la tua vecchia natura ti urla di continuare ad essere un egoista, tu gli devi dire: io ho Gesù, io sono piena, io sono sazia, io ho Gesù. E solamente quando siamo pieni, allora siamo pronti per dare. Io so che stai pensando: Sara, questo è un consiglio che va bene per chi non conosce Gesù, per chi non ha una relazione. No, questo è un consiglio che vale per un matrimonio perfetto, per chi si deve fidanzare, per chi è single, per chi si sta per sposare. Se cercherai nella tua relazione di colmare quel vuoto, allora andrà male. Andrà male. Se stai cercando qualcuno che ti faccia sentire bella, se stai cercando qualcuno che ti faccia sentire degno, mi dispiace, questo lo devi chiedere a Dio prima di tutto. È Dio che ti fa sentire bello, è Dio che ti fa sentire amato, è Dio che ti fa sentire degno, è Dio che ti ricorda tutte le sue promesse, è Dio che ti ricorda quanto sei prezioso, è Dio che ti ricorda quanto vali, è Dio che ti ricorda i tuoi talenti, è Dio che ti ricorda che tutto quello che è passato, per quanto sia stato brutto, ma si chiama passato, e Lui vuole costruire un nuovo futuro per te. È Dio che ti ricorda che oggi hai la possibilità di vivere in Lui il meglio che Lui ha per te, ed è il meglio, vi assicuro, è il meglio. Amen? Quello che Dio ha per te è il meglio, assolutamente. Io mi sono assolutamente persa in questi appunti, ma va bene. Voglio leggervi due versi che ci dicono come diventiamo quando questo bisogno prende piede. In Efesini 4:19 e in Efesini 5:3 dice questo. Efesini 4:19: essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Sai che significa la parola bramosia? Avidità. Avidità profonda. In Efesini 5, guarda che cosa dice la parola di Dio rispetto all'avidità. Ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia siano neppure nominate tra di voi. Lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco, della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi in voi il rendimento di grazia. Sappiate infatti questo: nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Incredibile. Se sei bramoso, se sei avaro, sei un idolatra. Ti ho detto che sei un egoista e sei un idolatra. Ti senti edificato da questo insegnamento? Ti piace o te ne vuoi andare subito? Perché? Perché la Bibbia parla dell'avarizia come di un'idolatria? Che cos'è l'idolatria? È mettere qualcuno prima di Dio. Togliere da Dio la sovranità che gli spetta. Quando sei avaro, quando sei egoista, sul trono della tua vita ci sei tu. E siccome ci sei tu, non ci può essere Dio. Per questo quando siamo egoisti, siamo degli idolatri, perché stiamo scegliendo di adorare noi stessi e non Dio. Ma dai, Sara, ma non mi dire così, cioè veramente, io... Che cosa ho fatto di male? Cioè, sto solo cercando la persona giusta, mi sono solo accanito verso quella persona, gli ho mandato 27 miliardi di messaggi mentre stai parlando e io sono andata sotto casa, gli ho scritto un messaggio sul muro, gli ho scritto sulla bacheca, gli ho mandato una foto di me in addominali scolpiti, cioè ma dai, ma non mi dire che sono un idolatra. Sì, perché stai adorando il tuo bisogno, stai adorando che cosa c'è qua. Stai adorando questo vuoto, stai adorando quello che per te è il meglio. Adorare Dio è un po' diverso e questa idolatria ci può far entrare in alcune relazioni strane. Voglio leggerti un altro verso. Prima di leggere questo verso ti voglio ricordare una cosa. Dio, siccome è tuo padre, ha solo cose buone per te. Ci credi? Ci credi? Cioè Dio non ha cose brutte per te. Cioè quando Dio ti dà un regalo non è brutto. Quando Dio ti dà dei consigli non sono brutti. Quando Dio ti chiede di vivere quelle cose o per quella strada ti sta dicendo che quella è buona. Ora sentite che cosa dice Paolo nella lettera ai Corinzi. Nudo e crudo, lo leggo così, ok? Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione c'è la luce, c'è tra la luce e le tenebre? Nella, puoi spegnere tutte le luci, per piacere. Quale comunione c'è tra luce e tenebre? Secondo voi, in questa condizione, quale comunione ci può essere con la condizione di prima? Nella, puoi accendere le luci per piacere? Grazie. Quale comunione c'è tra luce e tenebre? Che cosa c'è in comune tra luce e tenebre? Che cosa c'è in comune tra ora e prima? Cosa c'era in comune? Niente. La Bibbia parla di un giogo. Che cos'è un giogo? È un peso. È qualcosa che Satana ci mette sulle spalle per non farci camminare dritti. È un legame, è qualcosa di pesante, è qualcosa di brutto. E la Bibbia dice, non ti mettere sotto un giogo che ti fa male. Cioè, Cristo c'è scritto che ci ha liberati perché noi fossimo liberi. Quanti di voi, come me, erano sotto un giogo così pesante del peccato? Sì? E tu camminavi così. E poi Gesù è arrivato nella tua vita e hai cominciato a camminare così. Yeah, sono libero! Sono leggero, posso saltare! E poi Gesù dice, non ti mettere sotto un giogo. Oh, ma questo ragazzo è bellissimo, non conosce Gesù. E mio cognato è sposato. Ma dai, ma è troppo bello. E poi ricominci a camminare così. E la Bibbia dice, ma sei scemo. Cioè, ma sei scemo. Ma quale comunione c'è? Ma perché? Se eri libero, ti sei messo sotto una cosa pesante. Ma non l'ho voluto dire. Ma sei stupido. Ma dai, Sara, ma era bellissima! Ma tu l'hai vista? Cioè, ma te la faccio conoscere. Cioè, non è bella, è buona. Cioè, mai visto una ragazza così bella? Mai visto un ragazzo così bello? Sì, ma non ha Gesù. Vabbè. È un dettaglio. Ma sei scemo. Cioè, io con tutto il rispetto che ho, con tutto la... Ma sei scemo se fai una cosa del genere. Sai perché? Perché non c'è comunione tra luce e tenebre. Perché Dio ti ha liberato e tu ti sei andato a mettere sotto un'altra cosa pesante. Ma sei scemo. E la Bibbia dice questo. Ma dai, ma forse Sara si è sbagliato. Sì? Però non si è sbagliato quando ti ha detto che tu sei prezioso e io ti amo. E io vorrei dirti, si è sbagliato Gesù, sei scemo. Ma Sara, ma dai, ma l'esperienza. Ok, voglio essere seria. Nella nostra chiesa ci sono bellissime coppie, straordinarie persone che si sono messe insieme mentre uno dei due non era credente ancora. Sono delle bellissime eccezioni. Io amo veramente come Dio riesce a trasformare ogni cosa per il suo bene, ma sono delle eccezioni, sono delle bellissime eccezioni. Sai che cosa penso veramente? Che Dio avesse già un piano per quelle persone e che Dio le avrebbe salvate comunque se si fossero messi insieme o no. Però ti assicuro una cosa: ti butteresti mai da un burrone dicendoti che hai il 20% di probabilità che si aprirà il tuo paracadute? Perché? Perché saresti scemo. È vero. Ti dico questo: se ti metti insieme a qualcuno che non crede in Gesù, pensando e sperando che sarà salvato, sei uno scemo. Perché hai solo il 20% di possibilità, forse anche di meno, che quella persona conosca Gesù. Perché però qual è l'80% di possibilità? È che i tuoi figli crederanno delle cose differenti da te e che tu verrai qui in chiesa o in altre chiese ogni domenica da solo e che tu dovrai prendere delle decisioni per la tua famiglia che non saranno quelle che Dio vuole per te. Questo quando vedi quella bellissima ragazza e quel bellissimo ragazzo non ci pensi. Ma sai una cosa? Guarda i tuoi genitori. Forse molte delle famiglie, non vi faccio alzare la mano, ma quante famiglie ci sono qui di cui solo uno è credente? Solo tuo padre o solo tua madre? Se sei qui, lo sai la sofferenza che tua madre o tuo padre porta addosso? Lo sai quando uno dei due vive Gesù e l'altro no? Quanto è pesante pregare prima di mangiare, fare delle scelte che sono unite? E sai quanto può essere più bello se invece nella tua famiglia regna Gesù? Allora sei scemo se non lo desideri. Sei scemo se pensi che la bellezza di quella persona durerà per sempre. Sei scemo se pensi che il tuo matrimonio... Ma sto proprio offendendo tutti. Niente volgarità, però vi sto offendendo. Non so se il mio pastore è più contento o no. Però sei scemo se credi questo. E io ti prego, io da 12 anni sono responsabile dei giovani. E sai una cosa? Non ho visto una relazione facile in questo senso. Non ho visto una relazione facile. Conosco invece un sacco di famiglie che hanno pensato va bene, prima o poi si convertirà e che ancora oggi sono in chiesa pensando per piacere Sara, prega per mio marito, prega per mia moglie, prega per i miei figli. Ehi, se posso volere una cosa per voi è questo. Io prego per ognuno di noi un matrimonio che non è in due ma che è in tre. E che c'è al centro qualcuno che è in grado di darti e dirti il meglio. E che c'è al centro qualcuno che è in grado di ministrare alla tua vita un perdono sul quale tu puoi stare. E che quando i tempi sono difficili, e che quando le cose vanno male, e che quando hai 40 kg di più, non hai più i denti, e c'è le rughe, c'hai i capelli sporchi, hai ancora una persona accanto che ti ama perché ti guarda come Gesù ti vede. Ti piace? Ti piace o no? Cristian, hai fatto il romantico con Laura, sì, io ti amerò così, quando c'hai i capelli sporchi. Questo è un momento molto romantico. Potresti fare una dichiarazione, chi vuole prendere il palco, salire e dire alla persona che lo ama di sposare, vieni, vieni ora, perché no, nessuno ha un anello pronto, peccato. Poteva essere un bel momento, poteva essere proprio bello. Qualcuno si sta alzando? Abbiamo un anello pronto nella... No, non so se la tua fidanzata vuole senza anello. Comunque Mario, come l'accoglienza, ce li ha qualche anello? Mario, vai a prendere gli anelli che abbiamo preparato. Ludo, dove sta Ludovico? Ludo! Se n'è andato! Cioè, proprio... Ludo, questo era il momento che ho preparato per te. E invece niente. Sapete Paolo a chi ha detto questi veri? Dove sta Ludovico? Va bene. Ora scende tutto romantico con Francesca, sposami. No, no. Vuole fare una cosa intima. Ci ha detto che vuole farlo con te e basta. Ok, va bene. Ok. Paolo stava dicendo questi versi a una chiesa che era in Corinto. Sapete com'era Corinto? Un po' come New York in questo momento. Corinto era una città fantastica, alla moda, super mega fashion, ma al momento 2000 anni fa Paolo gli parla parla alla chiesa di Corinto come una chiesa che ha problemi con persone omosessuali, con fornicazione, con adulterio, con persone che si travestono, persone, indovinate un po', Concita Wurst, quella tipa che c'ha la barba, era di Corinto, non sto scherzando, però diciamoglielo a sto ragazzo di farsi sta barba, che veramente o si fa la barba o smette di vestirsi da donna, perché non si può guardare. Comunque Sanremo era, c'era anche a Corinto, e quindi questi sono problemi su cui non puoi dire bah, a Dio non li ha affrontati, perché Gesù ne sta parlando già da 2000 anni fa, e se da 2000 anni ad ora lui ha questi consigli per noi è perché lui lo sa e lui sa qual è il meglio per noi. Ti piace? Ti piace? Chi ti sta guidando nelle scelte di relazioni che stai facendo? Anzi, cosa ti sta guidando nelle scelte relazionali che stai facendo? Cosa ti sta guidando nel tuo rimanere single? Il tuo voler servire Dio al di sopra di ogni altra cosa? Fai bene. O ti sta guidando il bisogno di avere qualcuno che non troverai mai perché è troppo alto nelle tue aspettative? Chi ti sta guidando nel tuo bisogno di cercare qualcuno? Il bisogno nella pancia? Il bisogno che tutti si fidanzano e si sposano e tu no? Il bisogno che sono così carini, Mario e Nello si sono, in 6 mesi si sono fidanzati, ma guarda, veramente il Signore benedice sempre gli altri, a me non mi benedice mai. Cioè, ma veramente, ma questi, no, chi è veramente benedetto è Antonio, cioè in 2 mesi si è fidanzato, gli ha messo l'anello al dito e poi si sposa. Cioè, questo è 12 anni di attesa, sembrava, chi era quello che ha aspettato prima 7 anni, poi gli altri 7. Dopo te li chiederanno queste cose, è vero. Cosa ti sta guidando nelle tue relazioni? Chi ti sta guidando nelle tue relazioni? Voglio dirti una cosa forte, ma ormai te ne ho dette già tanto. Ti sta guidando il tuo stomaco? Ti sta guidando quello che hai sotto i pantaloni? O ti sta guidando Gesù? Chi ti sta guidando nelle scelte che stai facendo? Se è quello che è nel tuo stomaco, non avrai vita facile, purtroppo. Se è quello che è nei tuoi pantaloni, avrai una vita molto più difficile. E il mio consiglio per te è taglia e congela. Se il tuo occhio ti porta a peccare, cavatelo. Aggiungi tu il resto. Però abbiamo delle bustine dietro e il ghiaccio è pronto. L'accoglienza è pronta per... Taglia e congela. Lo sai che c'è una storia che io amo citare e poi con questo voglio concludere? Ed è di un mio amico che ha scritto un libro della Bibbia, si chiama Neemia. E Neemia 13, finalmente... Sento lo spirito di Neemia in me, che scrive questi versi. Io li ho ispirati a Neemia più di 2500 anni fa. Anche lui era un responsabile dei giovani. Neemia 13, al verso 23. In quei giorni vidi pure alcuni giudei che avevano sposato donne di Ashdod, di Ammon e di Moab. La metà dei loro figli parlava la lingua di Ashdod e non sapeva parlare la lingua giudaica, ma parlava soltanto la lingua di questo o di quel popolo. Allora io li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli. Io lo amo quando dice queste cose. Io amo la parola di Dio. Li feci quindi giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro, non avrebbero preso le figlie di quelli per i loro figli né per se stessi. E dissi, non peccò forse Salomone, re di Israele, per queste cose? Eppure fra tante nazioni non ci fu un re simile a lui. Era amato dal suo Dio e Dio l'aveva stabilito re su tutto Israele, ma le donne straniere fecero peccare anche lui. Cosa ci sta dicendo? Che non importa la tua posizione. Non importa se conosci Dio da 20 anni, se sei un leader, se predichi, se hai un gruppo, se sei un capogruppo, questa forma di idolatria è dietro l'angolo per tutti quanti noi. Dovremmo dunque udire di voi che commettete questo grande male, che peccate contro il nostro Dio prendendo mogli straniere? Uno dei figli di Gioiada, figlio di Elishib, il sommo sacerdote, era genero di Sanballat, lo oronita, che era quello che rompeva le scatole mentre stavano costruendo. Io lo cacciai via da me. Ricordati di loro, mio Dio, perché hanno contaminato il sacerdozio e il patto del sacerdozio e dei leviti. Così io li purificai da ogni persona straniera e assegnai delle mansioni ai sacerdoti e ai leviti, ciascuno al suo compito. Ora togliete la parte da ridere, in cui mi identifico fortemente, ma prendete la parte vera. Neemia ha visto un popolo che stava ricostruendo per il regno di Dio, un popolo che Dio aveva scelto come suo tra le nazioni. Ha visto un popolo, sacerdoti, responsabili, cadere dal loro compito. Perché? Per questo bisogno, per l'egoismo, perché pensi di saperne più di Dio, perché non ti fidi di Lui, perché pensi che Lui non ha cose buone per te. Allora me la prendo io la moglie, provvedo io per me, provvedo io a mio marito. Che cosa dice Dio? Per piacere santifica questo sacerdozio, purifica questo sacerdozio. Per piacere, Signore, purificali di nuovo e rimettili nel loro posto. Perché ho voluto prendere questo verso? Non solo per farvi ridere, ma perché quello che Dio ha promesso ad ognuno di noi è che questa generazione, questa, tu, chi hai accanto, ha uno scopo, quello di sconvolgere il mondo, quella di rivoluzionare questo mondo, quello di mettere sotto sopra fino all'estremità della terra. E allora perché un potenziale così dovrebbe essere rovinato da un matrimonio che è sbagliato? Perché un potenziale così dovrebbe perdere l'obiettivo che Dio ha previsto perché semplicemente è scelto di bisogno? Perché questo? Vogliamo alzarci in piedi? Quello che ti sto dicendo, quello che ti sto chiedendo, forse non ricorderai niente, però ti voglio chiedere, ti voglio fare questa domanda. Nella tua vita hai previsto di accontentarti del 20% o stai puntando al 100%? Nella tua vita stai desiderando, sognando, bramando per il 100% del meglio che Dio ha o ti stai accontentando delle briciole? Stai scegliendo di prendere il meglio che tu hai previsto per te, che ti assicuro è anche meno del 20%, o stai scegliendo di aspettare quel bellissimo regalo che Dio ha per te, che Lui ha previsto nella sua immensa grazia, nel suo immenso amore, perché ti ama da morire, perché ti ama profondamente. Dio ti chiede oggi di non accontentarti più di quel 20%. Di non prenderti quel 20%, perché Lui ha un meglio per te. Lui ha delle relazioni perfette per te. Lui ha la tua vita perfetta per te. Lui ha il meglio per il tuo futuro. Lui ha il meglio per il tuo presente. Lui ha il meglio per le tue amicizie. Lui ha il meglio per tuo marito, per tua moglie. Lui ha il meglio per i tuoi figli. Lui ha il meglio per la nazione che influenzerai. Lui è il meglio per quello che tu ti aspetti. Lui è il meglio. Sai perché? Perché Lui ti ha creato, Lui ti ama di un amore infinito, non potrebbe mai darti un 10%. Non potrebbe mai darti un 10%. Lui è il 100%, Gesù è il 100% per la tua vita. Gesù è il 100% per la tua vita, per piacere. Io sento forte che Satana sta provando a riempirti di bugie, per farti credere che quello che tu hai previsto per te è meglio. Io ti chiedo di riconoscere queste bugie, di svergognarle, di metterle alla luce, di portarle fuori, di toglierle, di abbandonarle, di rinunciarci, perché Gesù è il meglio per la tua vita. Gesù non ha grazia solamente, Lui è grazia, Lui è un regalo, Lui è il regalo per te. Lui è quell'amore, Lui è quell'amore totale, Lui è quell'amore vero, Lui è quell'amore di cui tu hai veramente bisogno. Ma Lui è capace anche di provvedere, di darti, di benedirti. Voglio ripeterti la mia domanda. hai intenzione di accontentarti del 20% o vuoi il 100%? Se vuoi il 100%, devi lasciare stare quel 20%, perché non è per te, non è per te. E io so che quello che ti sta dicendo significa che forse devi fare delle decisioni e sono troppo brutte da fare quelle decisioni. Però le tue decisioni di oggi, forse oggi saranno difficili, ma ti assicuro che Dio non ti lascerà solo. Dio non ti lascerà solo nel fare quelle decisioni. E domani sarai super mega benedetto per quelle decisioni che stai facendo. Amen. Andiamo a chiudere gli occhi e pregare. Ti voglio chiedere proprio di dire a Dio personalmente in che cosa sta rimanendo, se nel 20, nel 100, lo devi sapere solo tu e Dio, privatamente, personalmente, con tutta l'intimità che Dio ha con te, con tutta l'intimità che Lui sa avere con te, perché Lui ti chiama sposa. In Osea è scritto: io ti fidanzerò a me per l'eternità, io ti fidanzerò a me in amore, in giustizia, in libertà. Questo è il fidanzamento che Dio ha previsto per te, un fidanzamento bello, libero, leggero. Lui ha previsto di fidanzarsi a te, Lui è il tuo sposo, Lui è la tua sposa, Lui è totalmente quello di cui tu hai bisogno. Io so che forse ora stai pensando che hai cominciato delle relazioni per egoismo, per avere, per non essere solo, perché non ti senti amato e hai cercato negli altri, stai ancora cercando negli altri. Il Signore metterà nella tua vita un amore così talmente profondo in questo momento. Un amore così profondo in questo momento da non avere più bisogno di questo, da non avere più bisogno che qualcun altro ti faccia sentire amato. Dio sta rimettendo le giuste priorità nel tuo cuore, nei tuoi sentimenti. Dio sta rimettendo le giuste priorità nelle tue emozioni. Posso chiederti di continuare a pregare, di metterti in intimità con Dio, di aprire la tua bocca, di parlargli, di dirgli come sta il tuo cuore.